Importante. La parola di oggi è importante. Ce n'è un abuso, soprattutto in campo sportivo, ma non solo. Probabilmente è partito da lì. Il tiro pericoloso è diventato una giocata importante, l'azione che poteva essere decisiva, l'azione importante, tutto importante. Ma si può usare appunto pericoloso, decisivo, significativo. Insomma, tutta una serie di sfumature che importante se le è portate via.